140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il nostro account ufficiale, @140caratteriR24, il mio account, @MartaCagnola, ma anche la nostra pagina Facebook 140 caratteri. Come ogni settimana, mano a mano, ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Musica, televisione e teatro nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. È il golden boy della nuova generazione di cantautori, esploso via YouTube, alle prese ora con il primo album, Siamo morti a 20 anni. Lo chiamano il Cile. Lorenzo Cilembrini, nato ad Arezzo e chiamato Cile dall'età delle elementari. Ho sempre avuto questa passione per la scrittura e per la musica, diciamo, portata in parallelo, che è, con sacrifici e anche un po' cognizione di causa, anche se irrazionale, ho cercato di concretizzare. Fortunatamente è uscito il mio primo album, Siamo morti a 20 anni, e dove confluisce la mia persona nella sua totalità. E allo stesso modo, fortunatamente, sto percependo dal pubblico un interesse a volerla conoscere. Sospeso su una bolla di sapone, soffiata dai tuoi occhi a dicembre, con le mie mani così gelide che non afferrano più niente, incapace di ritrovarti nella città così cambiata, tra i tramonti dei nostri sorrisi, tra i tramonti della nostra vita. E siamo morti a 20 anni, benedicendo di speranza troppe frasi rimaste sul guanciale mentre dormivo sotto al tuo letto, sentendoti sognare. Un autore che racconta molto della sua generazione. Io ho avuto questa impressione avendo qualche annetto di più. Di che anno sei? 1981. Cioè, esatto. Quando c'era Bob Marley, mi sa, a San Siro, se non sbaglio. Può darsi, dico una cosa non esatta. No, sì, sono nato negli anni 80, che questo è un po' croce e delizia della mia personalità e di tanti miei coetanei. Sì, ho subito un po' il, come tante persone nate in quegli anni, il peso di diventare adulti in un contesto molto diverso da quello della propria infanzia, e l'ho voluto trasmettere in questo album, anche se io, diciamo, molti pezzi erano pronti. Abbiamo scelto quelli che volevano dare la mia identità, e infatti ne esce un album ricco di chiari e scuri, nel senso, è una cosa che a me anche preoccupava inizialmente, perché già dal titolo, che è una provocazione essendo io toscano, Siamo morti a 20 anni, però dovevo imprimere la mia personalità nel mio primo lavoro, e quindi sì, volevo anche racchiudere, al di fuori delle mie vicende personali, la realtà che vivono i miei coetanei e le persone a me vicine. Anche questa è vita, ritrovarsi in una rissa di sabato sera, come sfondo le luci blu di una sirena, mentre scappi tutto intorno a una nuvola nera. Oh, anche questa è vita, ascoltare i politici che fanno chiari discorsi, che il paese ha bisogno soltanto di iene ghignanti, di pagliacci da televisione, dettagli eleganti. Anche questa è vita, ingoiare una polaroid di carta vetrata, regressione in chiave etilica di un'altra giornata. Non potresti mai capire quanto ti ho amato. star. Oh no, dove sei? C'è la realtà di gente che non ha un lavoro scontato come prima, che ha dei sogni che forse appunto quando siete cresciuti sembravano facili da realizzare. Sì, è esattamente quello. Per la prima volta una persona riesce a focalizzare quello che volevo dire. Sì, è questo. E forse appunto questa infanzia che abbiamo vissuto noi negli anni Ottanta, molto agiata da un punto di vista proprio umano, io intendo, anche se poi magari era un castello di carte. Ecco, questo poi è stato, come dire, un contraltare di quello che è stato il nostro diventare grandi e percepire un disgregarsi di tante cose. Cioè la precarietà, prima che a livello lavorativo, è stata una cosa che abbiamo dovuto constatare e immagazzinare a livello umano. E da ciò però nasce un desiderio di rivalsa, perché io non credo molto nella gioventù che diventa adulta che si adagia alle situazioni avverse. Credo che in noi cioè vorrei che questo album facesse trapelare un desiderio di rinascere. Certo che ti aiuterò con l'inglese prima che tu parta per Londra. Quando vedrai il Tamigi di notte e riflessa ci sarà la mia ombra a ricordarti che, a ricordarti che. Quest'amore nebulizzato cade da un condotto di un'acciaieria sopra una fiamma e provoca una strage. È la perfetta analogia. Sei la medusa degli anni dieci. I tuoi capelli come serpenti dorati. E adesso che mi hai reso di pietra, i miei incubi saranno meno disperati. Si parla tanto della fuga dei cervelli, tu ti sei occupato per la prima volta della fuga dei cuori, perché a un certo punto una ti scappa a Londra. Sì, no, io ho un legame con Londra abbastanza forte, perché ci ho vissuto nella mia adolescenza, ci vado spesso perché io comunque ho una grande infatuazione per la musica che nasce là e per come viene percepita la musica là, perché io lo dico sempre, non capisco perché qua in Italia, per dire, fare un festival dove coesiste un artista pop e un artista alternativo è impossibile, mentre là, per dire, Kylie Minogue e Prodigy potrebbero essere al Tea in the Park, in qualunque festival, senza che nasca niente, cioè lì la musica se la godono. E detto questo, sì, è un pezzo che parla di una persona che sta partendo, a me cara, a livello sentimentale, e la capisco, nel senso, se non avessi avuto questa matta e disperatissima idea di voler fare il musicista e il cantautore, avrei fatto anch'io la stessa cosa, credo. E adesso arriva la domanda difficile, che è l'ultima. Adesso, a parte guarire, ti sei fatto male la mano e devi guarire per suonare, adesso cosa c'è per il Cile? Spero appunto di fare, attraverso i live, breccia negli ascoltatori, nelle persone che desiderano di conoscermi a livello proprio, perché comunque il live è togliersi i vestiti e dare se stesso alle persone che sono interessate al proprio al lavoro che faccio. E per il resto io ho anche la passione di lavorare come autore, spero di riuscire a traccare, insomma, a toccare artisti importanti, e questo è quello che vorrei fare. è una necessità per me scrivere, veicolare la mia musica, quindi non lo faccio come dire, come fosse risico, cioè volendo conquistare, lo faccio perché senza di questa cosa non riuscirei proprio a sentirmi completo. Quindi regaleresti anche le tue canzoni ad altri? È la prima volta che lo sento dire, Ma volentieri, sì. Molto volentieri, sì. eh? Mi spingo ovviamente allora a chiederti a che campanello vorresti suonare. Ah, vediamo. L'ho già fatto con i Negrita, ad esempio, lavorando in alcuni testi. Mi piacerebbe sicuramente poter lavorare con Emma, quello sì, perché è forse l'artista adesso femminile che riesce più a smuovere veramente a livello emotivo le persone. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La televisione nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Sederai di Milano. Non è mai troppo tardi, anzi non è mai troppo presto. Tutte le anticipazioni di Sanremo 2013 dal conduttore Fabio Fazio e il direttore intrattenimento Rai Giancarlo Leone. Probabilmente una deriva, diciamo, degli ultimi de anni, ma insomma molti anni, che ha portato a far coincidere popolare con volgare nell'accezione peggiore del termine. In realtà popolare è un valore assolutamente positivo, che di solito si ottiene quando hai le aree d'opera in aree popolari, ma in aree bellissime, no? Non vuol dire che che popolare deve essere il contrario. Il tema è riuscirci, che è più difficile a dirsi che a farsi. Un Sanremo che farà inevitabilmente i conti con la crisi. Il festival deve costare meno del passato. Il mio problema è che non costi meno dell'edizione prossima, ecco. Però voglio dire, a parte quello, credo che ciascuno debba, insomma, essere valutato per quello che è giusto. Io peraltro ho un contratto che prevede già Sanremo anche non so da quanti anni, quindi voglio dire non è una sorpresa per l'azienda perché l'hanno deciso loro alcuni anni fa. Dopodiché, per quanto sia sgradevole, perché io non avrei alcun problema, ma non può essere un collaboratore di un'azienda a divulgare dati tecnici, quindi non ho nessun problema se lo farà la RAI, ma non posso farlo io. Fazio si sente più rottamatore o rottamato? È più rottamato perché io sono 29 anni che sto in RAI, quindi insomma non. Però per fortuna nel nostro mestiere la rottamazione, insomma, bisogna attuarla con consapevolezza perché l'esperienza è un valore importante, insomma, quindi sarebbe meglio rottamarsi da soli quando uno sente insomma, che non hai più niente da dire o che hai voglia di fare dell'altro. Per ora, insomma, pur avendo iniziato molto giovane, molto più di quello che pensi, insomma, ancora qualche anno ce la faccio. Poco, qualche aiuto, mi appoggerò a Luciana, piano piano. Direttore, è ancora una grossa scommessa per la RAI Sanremo. Sanremo 63, abbiamo già l'hashtag per noi che usiamo Twitter. Sanremo è sempre una scommessa per la RAI. Sanremo non è mai una certezza, Sanremo è sempre un rischio. Si possono nidare mille pericoli e mille questioni dietro. Sicuramente averlo affidato a Fabio Fazio, da questo punto di vista, per quanto mi riguarda, alleggerisce un po' questo peso, perché Fabio è un grande professionista in grado di coniugare qualità, assenza di scoop o di polemiche non necessarie e spero anche in grado di catalizzare l'attenzione dei grandi musicisti. Innegabile che sia un anno difficile per tutti dal punto di vista economico, la RAI dovrà fare i conti con, immagino, tanti vincoli, tanti paletti. Come farete? Beh, da questo punto di vista tutto costerà meno e anche il Festival di Sanremo dovrà costare meno, ma ricordiamoci che è l'evento televisivo dell'anno che è atteso da una buona parte del pubblico televisivo. Quindi bisogna da questo punto di vista fare di un problema virtù e sicuramente una conduzione intelligente di Fazio ci consentirà probabilmente di mettere ancora più al centro di prima le canzoni. Il fatto che noi avremo 28 canzoni nelle prime due serate del festival, dei big, anziché 14 canzoni, la dice lunga sullo spazio che avrà la musica. Poi, diciamo, dalla terza giornata in poi, una volta scelte la migliore delle due canzoni dei big, ovviamente si tornerà alla gara tradizionale. Però al centro, come si è visto prima, c'è molta musica, molte canzoni e speriamo che questo sia il vero dato prevalente del festival. Ultima domanda, attenzione a cantanti un po' più maturi, ci si allontana dallo spettro dei talent show, da quello che è successo gli anni scorsi, sebbene questo aiuti un po' l'industria musicale. Non ti riferisci ai ragazzi, ai giovani, ai talent, ma il talent di per sé non è una cosa malvagia da questo punto di vista. Certo è bello, per quanto riguarda i giovani, puntare sui professionisti, non a caso l'età si è un po' evoluta, cioè si va dalla maggiore età in poi, cerchiamo che i giovani che vogliono accedere alla professione, diciamo, di cantante e già hanno fatto i loro primi passi, e da questo punto di vista il vero talent può diventare, da questo punto di vista, il Festival di Sanremo. Chiostro di Via Rovello, Milano. Aspettando Odissea, la grande coproduzione col Teatro Nazionale di Atene, il Piccolo Teatro organizza la rassegna Ulissi, viaggio nelle Odissee. Il direttore del Piccolo, Sergio Escobar. Succederà quello che noi ci auguriamo, e cioè che si parta per un viaggio non preoccupandosi tanto di essere sicuri sul punto d'arrivo, ma dando valore proprio al punto per punto di questo viaggio, il cui arrivo forse potrebbe, per usare un termine, un'immagine di Cavafis, potrebbe anche deluderci l'Itaca, ma non ci deluderà se avremo avuto molte difficoltà, molta attenzione, molte peripezie lungo il viaggio. Noi viviamo in un'epoca, e uso il termine epoca non in modo retorico, sono convinto, in un'epoca che sta cambiandogli sotto le mani, in cui il punto d'arrivo sembra prevalere assolutamente sul viaggio. Quindi rinunciamo alla vita, rinunciamo a conoscere non solo gli altri ma noi stessi, e puntiamo al risultato finale. Guardi, questa è una metafora forte anche su quello che sta accadendo nell'economia. Si trascura l'economia vera, quella che cammina sulle gambe delle persone, pensando di risolvere tutto con un'immagine proiettata nell'assoluto di un'Itaca che si chiami BCE, che si chiami spread, che si chiami spending review. Mi interrogavo perché, voi meno devo dire, parlando a proposito dell'attenzione alla spesa, usate sempre il termine spending review, salvo poi tradurlo in italiano revisione della spesa, e mi sono dato una risposta. La revisione della spesa entra nel quotidiano, anche nella vita delle persone. La spending review rinvia una tecnica alta, altissima, di ingegneria finanziaria, per cui le persone non debbono occuparsene. Ecco, invece credo che noi dobbiamo occuparci. Se sostituiamo la parola Itaca alla parola città nella poesia di Cavafis, se Itaca, io dico, se la città è la tua meta, che il viaggio sia lungo e nel viaggio troverai il senso della città. Occuparsi delle persone e andare anche dove sono le persone, uscite dal teatro. I protagonisti sono i luoghi. Adesso la città è sconosciuta, perché le cose accadono nella città come nel mondo, non solo in contemporanea per ragioni di tempo, quindi sono contemporanee, ma accadono contemporaneamente in luoghi diversi. Palazzo di Giustizia, sarà la biblioteca di Lorenteggio, sarà la Casa della Carità, sarà il carcere minorile, non un ossequio di tipo sociologico dei luoghi diversi dal teatro, ma lì c'è il teatro della vita e quindi lì ci siamo noi. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana, ma anche questa domenica vi invitiamo a venire con noi alla Mostra dell'Anno, una serata speciale per gli ascoltatori di Radio 24 per visitare insieme a noi, con delle guide d'eccezione, la Mostra Picasso, capolavori del Museo Nazionale Picasso di Parigi a Palazzo Reale di Milano. Ogni settimana scegliamo un'opera di Picasso e vi chiediamo di commentarla con un tweet. I migliori della settimana si conquisteranno l'accesso a questa serata speciale il 24 ottobre. L'opera di oggi, ve la segnaleremo anche via Twitter, è L'Acrobata. Aspetto i vostri tweet, intanto continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale, @140caratteriR24, attraverso il mio account, @MartaCagnola, ma anche con la nostra pagina Facebook 140 caratteri. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.